ciglio, quel seno di tua sventura fabbro, sì che dai peccar. Vedrai penar quel seno, quell'occhio, quel ciglio, vedrai penar quel labbro, quel seno, quell'occhio, sì, quell'occhio, sì, quel seno di tua sventura fabbro, vedrai penar quel labbro, quell'occhio, quel ciglio, quel seno, vedrai penar. Più sospiro.